Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sa già chi ha ascoltato Oscar Giannino prima di questo programma, uno dei temi è sicuramente Alitalia e ne parleremo. Ieri ho espresso l'auspicio di non dovermi occupare più di Alitalia, evidentemente era un'utopia, perché ne parleremo nella seconda ora del programma. Governo al lavoro sulla vicenda Alitalia. Vertice in mattinata a Palazzo Chigi con alcuni ministri, tra cui il titolare dell'economia Saccomanni, il ministro dei trasporti Maurizio Lupi e il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, senza però i vertici dell'azienda. Ieri, nell'incontro che poi è finito con nulla di fatto, con un rinvio, non era mai arrivato il numero uno delle Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, quindi contrariamente alle indicazioni e a quello che battevano le agenzie prima. Alle 16 è iniziato il consiglio di amministrazione della compagnia, quindi di Alitalia, per informare i soci sugli ultimi sviluppi della vicenda. Non c'è stato, ripeto, quell'accordo di sistema che doveva consentire all'Italia di ottenere i 300 milioni di euro di cui ha bisogno per il piano industriale 2013-2016. Né i fornitori né le banche a questo punto hanno dato il via libera. Tra l'altro, su questo oggi è intervenuto anche l'amministratore legato di Eni, Paolo Scaroni, che ha detto: non possiamo certo aumentare il fido ad una società il cui futuro non ci dà sicurezza, e se non riscuote la fiducia degli azionisti non possiamo tenerla in vita noi con il carburante. Poi ha aggiunto altre ipotesi sarebbero più realistiche. Perché? Perché c'è anche un problema di rifornimento di carburante per l'Italia. Resta sul tappeto l'integrazione con Air France, alla quale però la compagnia deve essere accompagnata, diciamo, da un soggetto pubblico. E poi, ed è proprio su questo cavaliere bianco, su questo soggetto pubblico, che si sta concentrando l'azione del governo. Io ieri ho detto: speriamo non sia di solito di nuovo la cassa depositi e prestiti, perché già abbiamo fatto comprare Ansaldo Energia, che è un gruppo, un bel gruppo, un gruppo che non ha problemi, però non si capisce perché debba entrare il risparmio postale degli italiani in Ansaldo Energia per poi fare un accordo con i coreani più avanti. Adesso non vorrei che però il risparmio postale degli italiani finisse in Alitalia, col massimo rispetto per Alitalia, però un conto è Ansaldo Energia, che è una società che macina fatturati ordinativi, e un conto è Alitalia. E l'altra ipotesi è quella delle ferrovie dello Stato, ma non ha trovato conferme. Il ministro Lupi ha chiarito che il governo non ha mai proposto l'ingresso di Ferrovie dello Stato. Comunque il prossimo appuntamento è il 14 ottobre, ci sarà l'assemblea per varare l'aumento di capitale. Questo è un tema. L'altro tema riguarda la legge di stabilità, perché mentre il governo cerca di individuare a quanto potrebbe ammontare la riduzione del cuneo fiscale, quindi delle tasse in busta paga sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, e anche oggi poi lo sentiremo il segretario della UIL Angeletti, in linea con quello che ha già detto ieri Confindustria, oggi ha ascoltato anche il presidente Confindustria Squinzi in audizione sul tema. Dicevo, anche Angeletti ha individuato in 8-10 miliardi la cifra per avere un impatto significativo. Siamo a meno della metà nelle intenzioni del governo, che ha detto 4-5 miliardi, di cui 2 miliardi e mezzo per i dipendenti, che vorrebbe dire un risparmio medio in busta paga di 250-300 euro all'anno. Allora, anche qui bisogna capirsi, un'indicazione di 4-5 miliardi potrebbe essere un inizio, però è inutile girarci attorno. Un effetto vero e proprio tu ce l'hai se raddoppi almeno la cifra, se vuoi un effetto sui consumi interni e quindi sul potere d'acquisto. Questo nel giorno in cui scopriamo, tra virgolette, che il potere d'acquisto degli italiani continua a calare. L'Istat ci racconta infatti che nei primi sei mesi dell'anno, rispetto al 2012, dove già non è che navigassimo nell'oro, il potere d'acquisto delle famiglie italiane è calato di un altro 1,7%. Mentre scopriamo anche che la pressione fiscale è cresciuta nel secondo trimestre. Quindi, mentre il governo sta pensando a come ridurre un po' di tasse, intanto le tasse aumentano. Perché? Qui bisogna capirsi, perché il venir meno dell'IMU, della rata IMU, ha fatto sì che aumentassero le addizionali soprattutto, per cui l'Istat è molto chiara su questo, la pressione vola al 43,8% nel secondo trimestre dell'anno. Di questo parleremo in apertura, poi come sempre la borsa, le reazioni oggi del mercato sono soprattutto sul Monte dei Paschi di Siena. Devo dire che dopo un'apertura col botto più 5% si è molto ridimensionato il titolo, più 1,65%, bene la Popolare Emilia Romagna più 2,75%, bene Pirelli più 1,90%, ma in generale la borsa italiana, che era partita bene, si sta allineando totalmente con le altre borse europee, perde lo 0,20% Milano in questo momento, perde lo 0,70% Parigi, lo 0,30% Francoforte, l'1% Londra, lo 0,36% è il calo degli Stati Uniti. Chi va male? Prismian meno 2,60, Telecom Italia meno 2,15, Unicredit meno 1,5, Ubibank meno 1,20, come Fondiaria Assai e Autogrill lo 0,90, lo perde World Duty Free. Il Finmeccanica invece guadagna l'1,5%. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dall'economia internazionale, oro stabile a $1,324, petrolio anch'esso stabile a $103 il barile. Nel frattempo, sempre sul fronte dell'economia internazionale, in questo caso delle commodities, l'organizzazione no profit mondiale Oxfam ha lanciato un appello per chiedere alle multinazionali del settore alimentare di fermare il land grabbing. Ce ne siamo già occupati, è sostanzialmente l'accaparramento delle terre di piccoli agricoltori nei paesi in via di sviluppo per usare queste terre per la produzione agricola di carattere intensivo, in particolare di zucchero. Ora, so che può far sorridere, ma pensate che il consumo di zucchero nel mondo è raddoppiato negli ultimi 30 anni e secondo le previsioni aumenterà del 25% nei prossimi 7 anni. Al di là dei temi di cui spesso si occupa anche la nostra Nicoletta Carbone, cioè il danno che crea l'utilizzo di zucchero, non solo quello che usiamo noi, ma anche quello che troviamo già nei prodotti per diabete e altre malattie cardiovascolari, significa anche appunto land grabbing, quindi sottrazione di terra a livello mondiale. Infatti si sofferma il rapporto di Oxfam sui casi avvenuti in Brasile e in Cambogia, in cui molta terra è stata tolta ai piccoli agricoltori per fornire zucchero a Coca-Cola e Pepsi-Cola, perché per esempio sono tra i più grandi compratori di zucchero al mondo, come è immaginabile, e praticamente ci sono intere multinazionali che stanno operando e sono, mi dispiace dirlo, causa del land grabbing a livello mondiale. Teniamolo presente, perché ogni tanto non possiamo parlare solo di Alitalia, Monte dei Paschi, cuneo fiscale o shutdown americano. Nel frattempo il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni sulla crescita mondiale. Per quest'anno farà il 2,9 invece che lo 0,3. L'anno prossimo invece è confermata un'accelerazione, più 3,6%. Nell'area euro quest'anno la media del PIL sarà meno 0,4%, ma nel 2014 confermata una ripresa al più 1%. Il PIL italiano, allora, quest'anno meno 1,8%. Sempre la stima del Fondo Monetario Internazionale. L'anno prossimo più 0,7%, la disoccupazione al 12,5% quest'anno e al 12,4% l'anno prossimo, il che porterebbe l'Italia perlomeno in linea con la media europea, ma sicuramente non è un dato di cui esultare il fatto che la disoccupazione l'anno prossimo, se tutto va bene, resta ai livelli di quest'anno. Buona notizia dalla Germania, dove ricorderete che a luglio vi era stata una sorprendente battuta d'arresto nelle esportazioni, riparte l'export tedesco più 1%, Mentre per quello che riguarda il gruppo di telecomunicazione francese Alcatel-Lucent Technologies, le notizie sono tutt'altro che buone, perché ha confermato l'imminente taglio di 10.000 posti di lavoro nel mondo, 900 dei quali in Francia. Veniamo all'Italia. Allora, gli esodati. Ogni tanto purtroppo qualche esodato ci scrive, ma non se ne parla più. No, non è che non se ne parli più, è che il ministro Giovannini deve farci sapere che tipo di riforma verrà fatta sul mercato, sulla legge Fornero. Allora, il ministro oggi ha precisato che non vi sarà alcuna controriforma della riforma Fornero in termini di maggiore flessibilità in uscita, perché sono incompatibili con i conti pubblici. E ancora ha aggiunto nel complesso, per quello che riguarda gli esodati, sono stati destinati complessivamente 10 miliardi e 400 milioni di euro. Per la quarta salvaguardia sono stati stanziati 600 milioni per circa 6.500 esodati, i cosiddetti licenziati individuali. Nei tre precedenti decreti di salvaguardia erano stati coinvolti 130.000 esodati, e quindi altri 600 milioni sono arrivati con la quarta tranche. E poi, adesso sentiremo anche Giovannini sugli esodati, una anticipazione a mio avviso molto importante sulle pensioni. Allora, nel 2014 non ci sarà rivalutazione rispetto all'inflazione, quindi non verranno adeguate all'inflazione, no? Le pensioni superiori a 6 volte il minimo, quindi sostanzialmente sono quelle di chi ha circa 3.000 euro di pensione al mese. Può sembrare tanto, visto che abbiamo milioni di cittadini che hanno 500 euro di pensione, però attenzione che per molte figure professionali, ma non di ricchi o super ricchi, che hanno versato con il contributivo anche, ma con il retributivo soprattutto, la pensione, 3.000 euro riguarda una platea molto, molto più alta di quanto uno non possa immaginare. E adesso veniamo alle banche, ne parleremo anche tra un attimo. Perché? Perché oggi ci sono i dati della Banca d'Italia. Ora io rivolgo un appello al governatore Visco, non conto niente, non conterà nulla questo appello, però insomma, governatore, lei 2 giorni fa ha ricordato alle banche che vigila che devono comprare meno BTP perché la situazione sul fronte spread si è tranquillizzata, e dare più finanziamenti e credito alle famiglie e alle imprese, e che devono tornare a aiutare l'economia. Bene, forse occorre insistere un po' di più, fare più moral suasion, non so cosa possa fare la Banca d'Italia, però oggi la stessa Banca d'Italia pubblica il bollettino e scopriamo che ad agosto i prestiti al settore privato sono calati ancora di più rispetto a luglio, -3,5 contro -3,3. I finanziamenti alle imprese hanno fatto un -4,6%. Per cui, voglio dire, mi sembra che al di là delle parole e delle dichiarazioni di intenti non stia cambiando nulla, anzi sta anche peggiorando la situazione. È vero che sono cresciute le sofferenze stabili del 22%, però qua occorrerà che il governo, se non vuole essere accusato di essere troppo, come fu accusato il governo Monti, di essere troppo prudente con le banche italiane, convochi le banche prima o poi, e all'interno anche di una legge di stabilità che abbia un orizzonte di 2-3 anni, cioè che dica come far ripartire stabilmente questo paese, dica: perfetto, ridurremo la spesa pubblica con la spending review, elimineremo alcune agevolazioni alle imprese, però anche le banche devono iniziare a tornare, sì, con una sana prudente gestione, a erogare credito, non solo chiedendo garanzie e non solo, diciamo, quando è troppo facile. Anche perché quello che sta emergendo, e non voglio entrare nel tema, ma su come, non so, Mediobanca apre i soldi a Ligresti, è affare della magistratura forse in questo momento, ma dimostra ancora una volta che alcune banche italiane, non voglio parlare poi di altre banche, non so, mi viene in mente la vicenda di Roman Zaleski con Unicredit e Intesa San Paolo, cioè che il capitalismo relazionale in questo paese continua a essere presente, cioè che tu presti soldi più in base alle conoscenze, ai rapporti umani, ai salotti, che non alle valutazioni sui bilanci. Naturalmente c'è un ascoltatore che dice che io sono tenero con le banche, vabbè, non so, lei secondo me ascolta un altro programma, comunque. Andiamo avanti, per quello che riguarda, ascoltiamo però il ministro Giovannini proprio sugli esodati. Per ciò che riguarda in particolare la questione degli esodati, in questi mesi il governo ha, in primo luogo, proseguito nel dare attuazione alle tre salvaguardie definite dal governo precedente per complessivi 130.000 lavoratori. Ha avviato una quarta salvaguardia per le persone oggetto di licenziamenti individuali, stimate al momento in circa 6.500 unità, le quali costituivano all'interno della categoria degli esodati quelle nella condizione di maggiore fragilità. Il governo in pochi mesi ha stanziato risorse significative per queste categorie di persone, destinando a ulteriori interventi risorse aggiuntive disponibili per i prossimi anni. Vorrei ricordare che complessivamente con la quarta salvaguardia si è arrivati a un importo complessivo di circa 10 miliardi e 400 milioni per il tema degli esodati. Ancora una notizia e poi passiamo al primo tema, la legge di stabilità del governo e quindi le ipotesi sull'IMU. C'è un ascoltatore o ascoltatrice, anzi, mi sembra, che dice: dacci una buona notizia. Io ve le do le buone notizie quando le becco, però come faccio a dare una buona notizia quando oggi il rapporto dell'OCSE su 24 paesi mette l'Italia ultima per competenze alfabetiche, ovvero le capacità linguistiche ed espressive, e penultima in matematica. Si è ridotto, se vogliamo trovare una buona notizia, la differenza si è ridotta con gli altri paesi. In una scala che va da 0 a 500, il punteggio medio degli adulti italiani è 250 contro una media OCSE di 273. Le competenze matematiche sono 247 contro 269. In competenze alfabetiche il 28% degli italiani non supera il primo livello e solo il 30% si colloca al terzo, dal terzo in poi. Quanto alle competenze matematiche, siamo appunto penultimi a livello mondiale, al primo livello si collocano il 32% degli italiani. La cosa più preoccupante, segnala il rapporto dell'OCSE, è che è il dato sui NEET, cioè i giovani che non lavorano e non studiano. In termini di competenze alfabetiche, il punteggio di questi giovani è di 242 punti. Cosa vuol dire? 8 punti sotto la media nazionale. Vuol dire che già la media nostra è bassa, è ultimi sulle competenze alfabetiche. Tra i giovani che non studiano e non lavorano, queste competenze si abbassano ulteriormente, con il rischio di entrare in una spirale viziosa, perché hai meno competenze, non stai studiando, non stai lavorando, non ne acquisirai di altre, è difficile che tu ti alfabetizzi, diciamo, di fronte alla TV o al bar, ed ecco che il dato è ancora più basso. Sentiamo il commento del sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria al microfono del nostro Simone Spezia durante il nostro lungo, io lo chiamo Jerry, in realtà è una lunga ora di informazione che si chiama Effetto Giorno. Sono di ritorno da Istanbul, dove ho rappresentato l'Italia alla conferenza informale dei ministri proprio su questi dati che sono stati segretati fino a stamattina. Questi sono dati sulla competenza diffusa di tutta la popolazione adulta, competenze utilizzate sul lavoro, competenze in capacità di risolvere problema, problem solving, e poi competenze linguistiche e in matematica, quindi non solo i ragazzi ma tutta la popolazione, sì. Vuol dire anche i cinquantenni, i sessantenni, i settantenni. Siamo ultimi, ne siamo consapevoli, avevamo avuto negli anni passati anche dei segnali forti in questo senso, abbiamo invertito la tendenza ricominciando ad investire in istruzione e formazione diffusa, però ovviamente i dati sono questi. Durante l'incontro di Istanbul abbiamo detto le cose che abbiamo messo in cantiere, ci siamo soffermati su questi problemi che sono problemi che hanno anche la Spagna, gli Stati Uniti, e si tratta di riprendere investimenti massicci su tutta la popolazione. Naturalmente bisogna partire dalla scuola e dall'università. Su questo, diciamo, il decreto degli inizi di settembre rappresenta un punto di svolta, e poi il ministro, insieme al ministro del lavoro, ha proprio stamattina detto che si fa una commissione che entro 45 giorni dirà esattamente come rapidizzare l'impegno. Allora, adesso andiamo col meteo e poi iniziamo col primo tema di approfondimento, la legge di stabilità e l'IMU. Però una cosa la voglio dire sul tema dell'istruzione. È vero quello che scrivono molti ascoltatori, che in questo paese non cambia mai nulla, anni che parliamo di investire sull'istruzione, investire sul turismo, vabbè, è verissimo. E mi sembra che in questi anni tutto si sia fatto tranne che investire sull'istruzione. Però possiamo fare anche un po' di autocritica come genitori, come famiglie. Cioè forse va bene la scuola, anzi la scuola è fondamentale, ci mancherebbe. Però forse anche qualche stimolo in più dato ai figli a leggere, qualche libro in più, qualche soap in meno, qualche reality in meno, si può dire, o è sempre solo colpa dello Stato, diciamo, o della struttura di istruzione? Si può anche dire che forse tanti italiani hanno fatto pochi sforzi per alfabetizzare maggiormente i loro figli, o che li hanno iscritti a facoltà inutili, penso a scienze della comunicazione, così ci mettiamo il cuore in pace, o che tra una vacanza di studio all'estero si è preferito mandarli magari a fare le vacanze con gli amici in qualche altro. Cioè non possiamo dare sempre solo la colpa alle strutture pubbliche, che le hanno, ci mancherebbe. La qualità del corpo docente italiano è tutt'altro che, diciamo, encomiabile, ci sono eccellenze ma anche carenze. Però attenzione, perché sennò è sempre colpa di Roma, sempre colpa di qualcun altro, sempre colpa dello Stato. Un po' di esame di coscienza abbiamo fatto in questi 20 anni? Abbiamo creato un percorso per i nostri figli, o pensavamo che fosse importante la raccomandazione, la spintarella, andare a Non è la Rai, andare a Amici, a X Factor, tutti i programmi bellissimi, per carità, no? Cioè, siamo tutti a posto con la coscienza su questo, va bene. ...17:36, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Modifichiamo un po' la scaletta, facciamo prima la borsa, il Monte dei Paschi, poi cuneo fiscale e all'Italia. Vedo molti messaggi sul tema della scuola. Allora, io mi faccio anch'io l'esame di coscienza, mi dice un ascoltatore, lei si faccia l'esame di coscienza, da che pulpito? Certo che me lo faccio con mio figlio, però sto solo dicendo, il riferimento era questo, cioè non possiamo sempre dare la colpa alla scuola. Vediamo anche il paese, perché ha preso una certa deriva, un certo declino negli ultimi 20 anni. La Seconda Repubblica, vogliamo affrontarla così o è sempre solo colpa degli altri? Ecco, forse c'è stato un atteggiamento per cui tanto l'avremmo sfangata in ogni caso, l'importante era la conoscenza giusta. Io non ce l'ho, c'è qualcuno che mi vuole querelare perché ho offeso gli studenti di scienza della comunicazione. Io non voglio offendere nessuno, ho detto solo che se tu mandi tua figlia o tuo figlio a fare scienza della comunicazione nel momento in cui i giornali chiudono e TV pure, non c'è un posto di lavoro per giornalista, gli uffici stampa sono pieni, forse non stai ragionando sul mercato. Se l'inglese dei ragazzi che noi vediamo arrivare a 23-24 anni in stage fa ancora schifo, forse anche le famiglie potevano spendere qualche lira in più per mandarli a studiare l'inglese. Oppure sempre colpa è solo della scuola? Boh. E dire che quando io avevo 20 anni pensavo che le nuove generazioni avrebbero conosciuto l'inglese in maniera terrificante, in senso positivo. No, ma siamo ancora all'anno zero, altro che 3i. Allora, la borsa, meno 0,29% Milano, meno 0,77% Parigi, meno 0,40% Francoforte, meno 1% Londra, meno 0,50% gli Stati Uniti. Si è molto raffreddato il Monte dei Paschi, poi ne parleremo, più 1,70% nel finale, la Popolare Emilia Romagna più 2,40%, Mediaset più 1,80%, Finmeccanica più 1,70% e 1,5% lo guadagna Pirelli, ma anche Luxottica. Prismian meno 2,80%, Telecom meno 1,75%, Autogrill meno 1,50%, Mediolanum meno 1,40%, Unicredit meno 1,20%, Fondiera Assai meno 1,12%, Enel meno 1% come UbiBanca. Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ritmo, andiamo veloci, che oggi ho tanti temi. Allora, poi parlo anche della scuola. Lasciamo stare Monte dei Paschi, che ne parliamo dopo. Sì. Vorrei capire invece che cosa è successo su Finmeccanica, su Telecom Italia Media e su Luxottica. Vai. Beh, per quanto riguarda Finmeccanica, innanzitutto una scia positiva che segue all'annuncio sull'operazione Ansaldo Energia con la Cassa Depositi e Prestiti, ma non solo questo, i vertici di Ansaldo Breda, un'altra delle controllate che attende di capire la sua sorte, hanno parlato di interesse di gruppi stranieri e la sensazione che dopo questa prima operazione su Ansaldo Energia si possa procedere ad altre sistemazioni di controllate sta facendo impattare positivamente il titolo che ha guadagnato l'1,75%. Per quanto riguarda l'exploit di Telecom Italia Media, più 12%, segue all'accordo con il gruppo L'Espresso annunciato ieri per iniziare una valutazione che dovrebbe portare a integrare le attività televisive, cioè le frequenze televisive che i due gruppi possiedono. Per quanto riguarda invece Telecom, si sta ancora soffrendo per quanto riguarda l'indicazione arrivata da Standard & Poor's sulla possibilità che il rating sia peggiorato alla fine di novembre, e il timore del mercato è che in assenza di aumenti capitali ad operazioni di dismissione importanti in primis del Brasile non sia solo Standard & Poor's a peggiorare il rating su Telecom, ma possa una simile mossa essere operata anche dalle altre agenzie di rating. E questo per quello che riguarda i titoli. Poi Luxottica, tra l'altro, oggi ha visto l'Investor Day negli Stati Uniti, buone indicazioni sul risultato del terzo trimestre. Ancora, tra chi è andato bene, Popolare Emilia Romagna più 2,42, Mediaset più 1,80%. In realtà poi sono molto ricomposti anche i bancari. Cito altri titoli: Ansaldo CTS, che non è un bancario, sicuramente più 1,11, Snam più 1%, CNH più 1% anch'essa, Campari in recupero oggi più 0,80. Le banche oggi abbastanza piatte: Andrea più 0,30%, il Banco Popolare invariata praticamente, la Popolare di Milano e Intesa San Paolo perde lo 0,60, Unicredit l'1,20. Sì, c'è stato un andamento un po' contrastato, questo dovuto anche al fatto che alcune case d'affari hanno un po' rivisto la propria posizione su alcuni istituti, per cui ci sono stati un po' di spostamenti di portafoglio nel settore bancario. Questo ha portato, come tu dici, la Popolare dell'Emilia Romagna a essere molto brillante. Monte dei Paschi fa discorso a sé legato al nuovo piano industriale, ma poi altri titoli invece sono mossi diversamente. Unicredit, su cui alcuni sono invece molto positivi, oggi ha accusato una battuta d'arresto, ha perso l'1,2%, ma dopo aver fatto una settimana in cui aveva guadagnato il 14%, quindi alcuni aggiustamenti dovuti a rialzi e anche a sistemazioni di portafoglio a parte di case d'affari. E i migliori e peggiori in assoluto di Telecom Italia Media, abbiamo detto più 12%, Credito Valtellinese più 8%, Novare più 8,11%, Fronte Opposto, TAS più 6%, IMA più 3,70, IMSI più 3%. Chiaro che oggi però la borsa, l'attenzione principale della borsa italiana fosse dedicata al Monte dei Paschi, che pur chiudendo in rialzo decisamente più modesto rispetto a questa mattina, quando guadagnava oltre il 5%, ha chiuso appunto con un più 1,70%, ha visto un fortissimo volume di scambi. E allora parliamo del Monte dei Paschi di Siena. Ne parlo in italiano, anche perché non avete idea di alcuni messaggi che mi stanno arrivando per quello che ho detto sull'inglese. Anche il tuo inglese fa schifo, e hai pure studiato all'estero, vergognati. No, io non ho studiato all'estero, ho lavorato a Londra per molti anni. Ho capito, il mio inglese farà pure schifo, the cat is on the table, però abbia pazienza. Ogni volta che parlo con qualcuno il mio inglese è meglio io ho solo detto che è meglio, è tuttora meglio dei giovani che arrivano. Questo mi sorprende, che il mio inglese faccia schifo non lo metto in dubbio, che sia migliore dei 24enni e 25enni che vediamo, questo invece mi lascia più perplesso, se permette. E the cat is under the table, ok? Anche il mio senese fa schifo, ecco perché mi rivolgo a Cesare Peruzzi, che sta da una vita a Siena, per il Sole 24 ore. Cesare, buonasera. Sì, buonasera, ciao. Se vuoi ti faccio... Vado a Siena, io vengo da Firenze. Ecco, vedi, poi uno parla dell'inglese, della globalizzazione, poi arriva da... Se mi fate caricare Troisi con un fiorino, faccio anche un intro perché Fiera, non confondiamo mai Firenze con Siena. Allora, al di là delle battute, questa mattina c'è stato il botto sul Monte dei Paschi. Che cos'è che è piaciuto di più alla borsa? È brutto dirlo, ma è così. Gli 8.000 dipendenti in esubero su circa 30.000? Ma la mia impressione è che cinicamente alla borsa sia piaciuto tutto l'aspetto dei tagli, sicuramente. Però anche evidentemente la borsa scommette sul fatto che questo piano in qualche modo potrà accompagnare il Monte dei Paschi in acque più tranquille. Se poi ci arriverà con le proprie gambe, con l'aiuto anche o l'aiutino dello Stato o di qualche cavaliere bianco, questo lo vedremo nei prossimi mesi. Ma secondo te la reazione che ha avuto oggi la borsa è dovuta anche al fatto, insomma, che si è fatta chiarezza, che i vertici hanno detto noi faremo un aumento di capitale, inizieremo a ripagare i Monti Bond, cioè è questo che ha tranquillizzato? Sì, che sono stati messi dei punti fermi, delle certezze, quindi l'aumento si farà, i tagli si faranno, perché questo è un impegno che la banca ha preso con il governo italiano, il quale l'ha preso con l'Europa, quindi difficilmente si potrà scappare da queste scadenze, da questi impegni. Tutto questo dà certezza agli investitori. Aggiungo che anche la relativa tranquillità politica o stabilità di prospettiva, sia pur breve, del governo italiano, con il miglioramento dello spread, è importante per i conti del Monte, che come sappiamo sono fortemente influenzati da un portafoglio di titoli di Stato italiano abbastanza importante. Lui, il Monte dei Paschi, ha detto che ridurrà comunque la sua esposizione da 23 a 17 miliardi, quindi sono 6 miliardi in meno di titoli di Stato. 550 sportelli chiusi, non più 400 ma 550, UBS garante l'operazione dell'aumento di capitale da 2 miliardi e mezzo, e già nel 2014 la banca punta a restituire al tesoro il 70% dei Monti Bond. Come hai trovato sia Viola che Profumo? Ma motivati, bisogna dare atto soprattutto a Viola, che si vede tagliare lo stipendio di 2/3, perché con questo impegno il suo compenso scende a 500.000 euro dal 1.400.000 dello scorso milione anno. 4. Scusami, dal 1.400.000 dello scorso anno, quindi ovviamente se il Monte tornerà a produrre utili questo tetto poi ripagherà la parte pubblica del finanziamento, questo tetto poi sarà eliminato, però per il momento è stato inserito. Adesso so che è facile, sono preoccupato per lo stipendio di Viola da 1.400.000 a 500.000 euro, sono anche preoccupato per gli 8.000 esuberi dipendenti del Monte dei Paschi, perché non c'è dubbio, anche soprattutto sono preoccupati loro, e quindi il fronte sindacale è ovviamente preoccupato, ma lo era già prima e ora lo è ancora di più, perché aumenta il numero degli esuberi. Certo. Bisogna dire che aumenta anche perché si allunga il periodo di piano di 2 anni, quindi in qualche modo questo si spalmerà in un periodo di più lungo, questo anche per quanto riguarda le chiusure delle filiali. C'è un aspetto paradossale, che è il fatto che il Monte dei Paschi si ritrova in questa situazione per aver acquisito una banca, Anton Veneta, che gli ha portato 1.000 sportelli in dote. Adesso ne dismetterà 550, di cui 400 li ha praticamente già chiusi, per cercare di ritrovare un equilibrio. Sì, ecco, su quell'acquisizione meglio lasciare parlare la magistratura, perché quello che sta emergendo è che non fu dettata solo da ragioni di carattere Io parlavo del paradosso industriale. Non fu dettata, da ragioni di carattere industriale. Per essere proprio buoni, buoni, buoni, poi c'è il processo che sta per iniziare. Grazie a Cesare Peruzzi. Hello, back to Focus Economia. Next topic will be IMU. Vedi che sto migliorando, lo dico all'ascoltatore che continua a scrivere insulti sul mio inglese. Penso che abbiamo altri problemi in questo paese, io stesso ne ho altri, a parte il mio inglese. Ma attenzione, perché vedo dei messaggi deliranti io ho solo detto che qualche responsabilità ce l'hanno anche le famiglie. Cosa avrò mai detto nell'istruzione dei vostri dei vostri figli. Ce n'era anche un altro bellissimo, ma non riesco a recuperarlo. Comunque, parliamo adesso del IMU, cioè dell'IMU, e soprattutto del cuneo fiscale, che non so nemmeno come si traduca in inglese, perché il cuneo fiscale, la riduzione delle tasse in busta paga, dovrebbe essere, diciamo, l'elemento, uno degli elementi principali della prossima legge di stabilità, l'ex legge finanziaria. Su questo sono intervenuti nell'ordine Luigi Angeletti questa mattina con il nostro Simone Spezia a Effetto Giorno. Devo dire assolutamente in linea il segretario della UIL con quanto detto ieri da Confindustria: 4-5 miliardi di riduzione di cuneo neanche si sentono, traduco io, la cifra deve essere almeno doppia, 8-10 miliardi. Fino adesso non ci ha convinti, ovviamente hanno ancora qualche giorno a disposizione prima di varare la legge sulla stabilità e francamente mi auguro che facciano tesoro di ciò che abbiamo sostenuto noi, che sostiene la stessa Confindustria e praticamente tutto il mondo che si occupa ancora delle vicende italiane, per la quale la vera manovra per avere sul serio una speranza di riprendere un percorso positivo della nostra economia è quella di ridurre le tasse sul lavoro. E ovviamente non può essere una questione simbolica, perché la questione simbolica assomiglierebbe molto quasi ad una presa in giro. Ecco, sto parlando della quantità. Che dimensione auspicate? Cioè la dimensione data da Confindustria, quindi diciamo almeno 8 miliardi, 10 miliardi, insomma su quelle cifre là, secondo voi potrebbe essere un primo passo quantomeno? Sì, il primo passo, che non assomiglia appunto ad una finta, è appunto di 10 miliardi di riduzione di tasse sul lavoro. E su questo poco fa è stato sentito anche dal governo il presidente Confindustria Squinzi. Abbiamo appena raccolto il suo intervento sempre su cuneo fiscale e manovra del governo. Noi come imprese siamo anche disposti ad esempio a rinunciare a tutti gli incentivi, purché ci sia una concentrazione su degli obiettivi. In modo particolare noi quello che chiediamo con maggior forza di tutto è la riduzione, l'abbattimento del cuneo fiscale sul lavoro. Io andrò stasera dal primo ministro e dirò che i 10 miliardi che noi stimiamo essere il minimo per fare veramente un salto di qualità, per cercare di dare una spinta nella direzione di ritrovare la crescita, bisogna trovarli, insomma, ecco, questo è assolutamente fondamentale. Detto questo, quindi utilizziamo i fondi che ci vengono dall'Europa nel modo corretto per ridare competitività al sistema paese e questo, quindi tutti gli interventi devono essere fatti in quella logica. Ecco, io quello che mi sento di dire è questo, di suggerire, e ci vuole molta determinazione, molta concentrazione, molto focus sul fare le cose che veramente servono. Ecco, per far ripartire il paese. Noi abbiamo un disperato bisogno di ritrovare la crescita in questo paese, è inutile che ce lo stiamo a nascondere. Allora, nessuno vuole insegnare nulla al governo, però obiettivamente sono quasi 830-840 miliardi di spesa pubblica, ma si riescono a trovare 10 miliardi per l'anno prossimo su 850? Ora, è vero che la spesa per beni intermedi è sui 100 miliardi, almeno il 10% di quello. Cioè, ma se io vado da mia moglie e le dico devi risparmiare il 10% perché non abbiamo più soldi, lei lo fa. Io non ci posso credere che su 850 miliardi, di cui 100 di spese di consumi per beni intermedi, non si riesca a risparmiare il 10% di 100 miliardi, o diciamo il 2% di 800 miliardi. Ma per favore. Alle 18:08 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Non posso tornare sul tema che ha suscitato centinaia di sms, messaggi, mail, commentando in breve, devo dire, la classifica dell'OCSE che su 24 paesi ha visto i nostri giovani essere ultimi per competenze alfabetiche, ossia capacità linguistiche ed espressive, penultimi in matematica. mi sono permesso di dire che forse, oltre a criticare la scuola, per carità, e la qualità della scuola, dopo che per anni però i tagli li abbiamo fatti sugli investimenti alla scuola, che gli insegnanti vengono trattati come così delle sanguisughe del pubblico impiego, però dico, oltre a questo, forse un po' di autocritica lo possono fare le famiglie nelle scelte che hanno fatto in questi anni. Non vi dico cosa è successo, perché in questo paese se tocchi i figli rischi. Allora, mettiamola così, a parte che c'è chi mi dice lei la deve smettere di esprimere opinioni e leggere le notizie, se permette faccio un po' quello che voglio quando conduco il programma, ma al di là di questo, allora, 30 anni fa, 40 anni fa, prendevi un brutto voto, ok? Tuo papà te menava. Non è il massimo dal punto di vista pedagogico, è più da telefono azzurro che da pedagogia alla Montessori, ma mi rendo conto che quello fosse il metodo. Adesso io continuo a leggere di studenti che prendono un brutto voto, i padri vanno a menare gli insegnanti. Allora, voglio dire, piuttosto che menare l'insegnante, ma non dico menare tuo figlio, ma piuttosto che accusare l'insegnante, fatti un esame di coscienza, ammetti che tuo figlio è un po' mona, che forse anche tu qualcosa hai sbagliato nell'educazione, è più difficile, mi rendo conto. Però dove vuole andare un paese che mena gli insegnanti perché bocciano, rimandano, danno un brutto voto al figlio? Dove vuole andare? Appunto, all'ultimo posto nelle classifiche Ox. E invece noi restiamo sul tema della legge di stabilità, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del segretario della UIL Luigi Angeletti e del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, ne parliamo con chi ha scritto un bel editoriale domenica su Sole 24 Ore proprio sulle scelte che deve fare il governo. Scelte vuol dire rinunci a qualcosa per ottenere qualcos'altro, non puoi avere tutto. E mi riferisco all'ex rettore dell'Università Bocconi, nonché docente di economia all'Università Bocconi di Milano, Guido Tabellini. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, i sindacati, ma devo dire anche la Confindustria, le parti sociali, come si chiamano in gergo, dicono sì, l'operazione sul cuneo per essere significativa deve essere almeno doppia rispetto alle cifre che abbiamo visto, non 4 miliardi, di cui 2 miliardi e mezzo per in busta paga, ma almeno 10 miliardi. Lei nel commento sul Sole 24 Ore indicava già, insomma, quelli che sarebbero chiamate binari paralleli una volta, no? Sì, io penso che effettivamente sia il momento di dare un segnale importante di svolta, e il cuneo fiscale è senz'altro la priorità per le regioni che ben conosciamo, però va fatto con una dimensione rilevante. La cifra di 5-6 miliardi di cui si parla in questi giorni è insufficiente, potrebbe servire a dare degli incentivi selettivi, ma sappiamo che gli incentivi selettivi sono poco efficaci. Sarebbe molto più efficace un incentivo, una riduzione generalizzata, ma allora a quel punto, per avere un impatto rilevante, bisogna andare su cifre più grandi che riguardano appunto le decine di miliardi, ed è importante concentrare, a mio giudizio, questo taglio soprattutto sugli oneri sociali, sia delle imprese che dei lavoratori, perché è questo che contribuisce in maniera più diretta a ridurre il costo del lavoro. Quindi dice, se si interviene riducendo gli oneri sociali si è più efficaci da questo punto di vista, sia sul fronte del datore di lavoro che del lavoratore? Si è più efficace sicuramente rispetto all'IRAP, perché l'IRAP viene pagata in ritardo, mentre invece gli oneri sociali vengono pagati subito, certo. Si ha un effetto immediato. Gli oneri sociali hanno una parte che riguarda il lavoratore e le imprese, e quindi è equa da questo punto di vista, riguarda entrambe le parti sociali, e fa quello di cui c'è bisogno, cioè sposta la domanda di lavoro. Non c'è, sarebbe bello, ma non è così prioritario oggi invece ridurre l'IRP sui pensionati o su altre categorie che non sono toccate invece dal mercato del lavoro. Quindi lei dice una manovra che non può essere di 5 miliardi, ma se ben capisco almeno il doppio, da concentrarsi prevalentemente sugli oneri sociali, perché si pagano mese per mese, quindi uno avrebbe un vantaggio immediato, non è come l'IRAP che poi va a scadenza annuale. Però mi sembra che sulla cifra, che non è un dettaglio, tra i 4-5 miliardi del governo e i 50 miliardi in 3 anni di Confindustria, insomma, c'è una differenza di 10 miliardi all'anno. C'è un altro aspetto però che mi interessa, oltre alla cifra, se mi vuole dare anche una cifra secondo lei ragionevole, ed è l'orizzonte. Cioè, non vorrei che, come è stato fatto, lo devo dire, anche dal governo Prodi, un taglio del cuneo fiscale di cui non si è accorto nessuno in busta paga, riguardava più le imprese che i lavoratori, ma soprattutto si accompagnava poi a un aumento delle addizionali regionali, per cui alla fine tu in busta paga non avevi nessun vantaggio, ma soprattutto vi fu anche un mordi e fuggi, cioè capitò un anno e basta. A mio avviso, se vogliamo avere un effetto consistente sulla domanda interna, sui consumi, il dato di oggi è emblematico, sui primi sei mesi meno 1,7%, occorre che si prospetti a questo paese, ai suoi lavoratori e alle sue imprese anche un orizzonte più ampio di una manovra finanziaria. Questo assolutamente va fatto per incidere sulle aspettative, va fatto quindi su più anni. Da questo punto di vista le garanzie di credibilità che possiamo dare possono essere rinforzate anche dalle procedure europee che ci impongono un orizzonte di lungo periodo. Naturalmente questo vuol dire che deve essere però accompagnato da interventi sul lato della spesa, e occorre non tanto la capacità tecnica di individuare dove tagliare, ma la volontà politica di farlo, le aree su cui intervenire, naturalmente con una spesa che è intorno al 50% del reddito, ci sono, si sa anche dove si può intervenire sugli finanziamenti alle imprese, che di fatto poi sono agevolazioni spesso per trasporti locali o per voci che non, di fatto non servono a rendere più competitiva la nostra economia, sulle pensioni elevate, magari sul pubblico impiego. Naturalmente la spending review e i guadagni di efficienza sono la prima cosa da fare, ma non credo che siano sufficienti per riuscire a finanziare le cifre di cui l'economia italiana ha bisogno, cioè, Mi faccia capire, professor Tabellini, lei dice, se anche aggredissimo la spending review, quella, allora, su 850 miliardi di spesa pubblica, diciamo, aggredibili subito sono circa 100 miliardi, in gran parte sono i consumi intermedi, no, nella pubblica amministrazione. Esatto. Ecco, se anche aggredissimo quella, non basterebbero i soldi? Beh, per interventi dilazionati dell'ordine dei 20-30 miliardi di cui ci sarebbe bisogno su un orizzonte pluriennale per fare la differenza, è chiaro che se la massa aggredibile è 80-100 miliardi non ci si riesce. Anche se tagliassi del 15% avresti 15 miliardi scarsi in tutto, diciamo. E comunque 15% è già una cifra, enorme. Enorme, sì. E quindi lei dice, a questo punto, non solo con la spending review, ma anche, devo dire che su questo Confindustria aveva proposto, levateci gli incentivi, perché vanno spesso, come lei ricordava, aziende partecipate o dai comuni o dalle regioni, dallo Stato, non a imprese, passatemi in termine, vere, nel senso di private, che competono sui mercati internazionali. Levateci quello che spendete come incentivi alle imprese e dateci sotto forma di cuneo. Esattamente, questo è quello di cui bisogna parlare, e probabilmente forse anche pensare a programmi di spesa più ampi che riguardano la pensione, pubblico impiego, sanità. Questo non si può fare dall'oggi al domani, questa è la ragione per cui va fatto su un orizzonte pluriennale, dando il tempo di preparare queste cose dal punto di vista sia tecnico che politico. Ma se non lo facciamo adesso, saremo costretti comunque a farlo, io credo, da una crisi finanziaria che prima o poi ritornerà a essere rilevante. Quindi, nell'ordine, un cuneo fiscale decisamente più incisivo di quello che è stato proposto, su un orizzonte pluriennale, per quindi due o tre anni almeno, non solo trovando le risorse, i soldi dalla riduzione della spesa pubblica, ma anche dalla riduzione significativa delle agevolazioni alle imprese, che appunto vanno a imprese, per modo di dire, tra virgolette. E ci sono due fronti che vorrei commentare con lei, però brevemente, che non vengono molto toccati. Uno è il rapporto con le banche. Insomma, il richiamo del governatore della Banca d'Italia, Visco, l'altro ieri è stato fortissimo. Le banche devono comprare sempre meno BTP adesso che la situazione è più calma e tornare a finanziare famiglie e imprese. Lo stanno facendo ancora troppo poco. E l'altro fronte è quello europeo, perché tutto va bene, ma noi abbiamo firmato un fiscal compact, un accordo assurdo, a mio avviso, per la riduzione del debito, che vuol dire sostanzialmente per noi, a spanne, a mettere in cascina 40 miliardi di euro di riduzione del debito ogni anno. Ora, mi sembra una politica recessiva. Vorrei sapere cosa ne pensa sul fronte banche, imprese e anche Europa, perché non è che possiamo fare i compiti a casa noi e non chiedere nulla all'Europa in cambio. Mi chiede un commento, richiederebbe molto tempo e molta analisi. Sicuramente per ridurre il debito pubblico è pensabile riuscire a farlo soltanto se si rimette in moto la crescita dell'economia, altrimenti non ci si riesce, questo è pacifico. Sicuramente per rimettere in moto la crescita dell'economia occorre intervenire anche sulla stretta creditizia che in questo momento sta frenando l'economia italiana. Le cause sono molte, gli strumenti probabilmente anche lì sono tanti, più di uno, ci sono diversi strumenti tecnici. Uno dei problemi probabilmente è anche la necessità poi di ripensare alla dotazione di capitale delle nostre banche. Questo emergerà con chiarezza, io penso, dopo gli stress test che la Banca Centrale Europea si accinge a fare, farà intorno all'estate, ma in previsione di questi stress test è possibile che le nostre banche stiano già cercando di posizionarsi su una posizione migliore come rapporto capitale prestiti, e questo introduce un ulteriore elemento di stretta creditizia. È importante, come ricorda il governatore Visco, fare tutto il possibile per allentarla, e questo prima o poi richiederà anche di affrontare il nodo del capitale delle banche, ma ripeto, il problema è un problema molto, molto complesso e grande. Grazie, grazie al professor Guido Tabellini, appunto editorialista del Sole 24 Ore e ex rettore dell'Università Bocconi di Milano. Grazie a voi, buonasera. E adesso le informazioni sul traffico, chiedo scusa per il ritardo, e poi l'ultimo tema, l'Italia, non ci sono molti sviluppi, però insomma, e meno male per alcuni versi, perché se lo sviluppo deve essere tirar fuori soldi pubblici, meglio che non ci siano sviluppi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, visto che il sogno di ieri non ha funzionato, non doversi più occupare di Alitalia, vediamo se funziona questo sogno. Non rifare almeno su Alitalia gli errori che abbiamo già fatto nel passato. Prima del 2008 Alitalia era già stata salvata due volte almeno dai soldi pubblici. Poi nel 2008 abbiamo dato la bad company, la parte che perdeva, al pubblico. I privati sono entrati nella good company, good si fa per dire, perché da allora ha perso 870 milioni di euro solo a bilancio, e meno male che era la good company. Quindi insomma, in questo momento bisogna capire anche se dobbiamo salvare Alitalia a tutti i costi, con il risparmio postale degli italiani, con ingressi vari di banche che comunque gestiscono i soldi e i risparmi degli italiani, oppure dobbiamo anche alzare le mani. Professor Carlo Scarpa, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. La sento bello pimpante, mi fa piacere in chiusura di trasmissione. Senta, è più pimpante lei di Alitalia. Allora, non ci sono novità. Lo stesso però segretario della UIL Angeletti oggi a Effetto Giorno ha detto: beh, non vorremmo che lo Stato entrasse, che anche per i sindacati non è una cosa da poco. Lei perché teme che possiamo ripercorrere e rifare gli stessi errori? E anche perché lei è andato a analizzare quello che hanno fatto in questi anni, dal 2008, le altre compagnie concorrenti, diciamo. Le compagnie concorrenti non sono state benissimo, perché sappiamo benissimo che è stato un periodo economicamente disastroso per tutta Europa, però oggettivamente l'Italia non ha avuto un anno buono. Quando è andata bene ha perso una settantina di milioni, dal 2009 a oggi ha perso tutti gli anni, però voglio dire, essendo un'impresa che sostanzialmente è rinata dalle ceneri della vecchia dal 2009, si poteva anche pensare a una fase iniziale difficile. Così lunga, francamente, no. Questa non è. Ma perché lei scrive che la debolezza del progetto industriale dell'Italia era evidente fin dall'inizio? L'avevamo detto in tanti che non era un progetto industriale che andava molto lontano, nel senso che internamente stava venendo avanti il treno, il Frecciarossa, che ha fatto fuori una certa parte del traffico, non tantissimo, una certa parte l'ha fatta fuori. Però questo devo dire, il successo del Frecciarossa ha sorpreso in tanti, per cui questo non posso addebitarlo ad Alitalia, sarebbe ingeneroso. Però il progetto industriale andava poco lontano perché da un lato non sei competitivo con le low cost, dall'altro non c'era un'offerta sufficientemente variegata per competere con le varie Lufthansa, Air France, eccetera. Quindi si rimaneva in quella terra di mezzo nella quale Alitalia è sopravvissuto male, nonostante il monopolio garantito per tanti anni sulla Fiumicino Linate. Però il problema è che non si capisce che compagnia aerea sia, si capisce che non ha una low cost, però non hai fisico per competere nel mercato. Allora, vediamo una cosa, professor Scarpa, se domani Saccomanni la chiamasse e dicesse lei mi faccia un piano per il futuro di Alitalia, lei cosa farebbe? Non credo di avere la bacchetta magica, diciamo che io credo ad aggregazioni importanti, così come si sono visti o si sono cercate di vedere in questi anni. Adesso parliamo non di Air France, ma di Air France KLM, British Airways ha cercato di mettersi assieme con Iberia, la spagnola, eccetera. All'Italia deve entrare in una di queste grandi aggregazioni, naturalmente, visto che il più grosso azionista industriale adesso è Air France, ha senso pensare a Air France. È chiaro che a suo tempo Air France entrava comprandosi tutto, il buono e il balordo, e pagando lo Stato è italiano. È quello che era il vantaggio, certo. E invece nel frattempo ci abbiamo menato circa 3 miliardi, ma poi in realtà non sapevo neanche veramente mai quanti, e nonostante che abbiamo ripulito l'Italia di tutto il brutto che c'era, quello che abbiamo chiamato la bad company, il valore del buono che c'è rimasto è comunque una frazione molto piccola di quello di allora. Per cui comunque si vada adesso è un'operazione che va in deficit. Credo che l'unico modo di salvare in questo modo, in qualche modo, all'Italia sia farla entrare organicamente all'interno di Air France. Sicuramente non avremo più le condizioni di allora, sicuramente a oggi purtroppo ci saranno delle perdite anche sul posto di lavoro, perché quando si distrugge valore poi si distruggono anche posti di lavoro, c'è poco da fare, cerchiamo di salvare il salvabile, purtroppo è molto difficile raddrizzare una cosa storta. Per cui lei dice, in effetti Air France l'avrebbe pagata 1,6 miliardi, adesso la pagherebbe molto molto meno, ma senza la bad company, quindi ci abbiamo rimesso. Lo dico perché non voglio buttarla in politica, però è chiaro che lì ci fu uno scontro durante le elezioni del 2008 tra Prodi, che voleva darla a Air France, e Berlusconi, che invece fece l'accordata dei patrioti per l'Italia. Questo è agli atti, poi nessuno è infallibile. In questo caso è stato, possiamo dirlo tranquillamente, un errore. Cioè, quando tu bruci liquidità, carichi sulla collettività la bad company, e la good company non riesce mai a chiudere un anno inutile e perde più dei concorrenti, non so cosa dobbiamo chiamarlo. Mario? È un errore, un disastro. Perfetto. Allora, io avrei un auspicio nel concludere, grazie professor Scarpa, che almeno la politica, che deve comunque occuparsi dei dipendenti dell'Italia, stia fuori, perché ogni volta che ha messo mano su all'Italia, abbiamo visto cosa è successo, no? Vediamo che anche stavolta l'unico mio paura, timore, spauracchio è l'ingresso del capitale della Cassa Depositi e Prestiti dentro all'Italia o di qualche altra partecipata dallo Stato, perché nessuno va a mettere soldi in un gruppo che perde in questo modo senza un piano industriale. Mi dispiace per i dipendenti, mi dispiace per chi come me l'aereo lo prende, tutto quello che volete, però insomma questi continuano a perdere a bocca di barile. Siamo passati a 2 milioni di euro di perdita al giorno da 1 milione del 2008, ma cosa dobbiamo fare ancora? Possiamo riparlarne domani, dopo che avremo saputo cosa è successo dell'incontro con i vertici dell'azienda. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo appunto domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.